sentite? Vi ho parlato? No, sentite? Vi ho parlato? Parlate, parlate! Già circa ogni sospetto, ogni sospetto, e lo stato che trovate, sciolto il collo, nudo il petto. Sciolto il collo, nudo il petto, seguitate! Vestirtemi le spoglie! Vento e degna moglie, viva posto venti! Susanna!